senza visto, poi sbarcato a Lampedusa, dentro la cambusa di una stiva con la porta chiusa. La calura estiva ti prosciuga la saliva, casa cooperativa insieme ad altre sei persone della tua nazione. Viale Monte Ceneri, segatura polveri, spazzatura poveri, ronde di pattuglia nella gatta buia della city, rappresaglia rap nei quartieri, sacrifici picca come in tuia. La paura in via di amici, col giornale sotto braccio, lavoro pure spaccio. Corri con le gambe della mente, prendi un treno in corsa. Da qui a pochi cieli è paradiso, preghi in ginocchio dentro la moschea nell'odissea del tuo delirio. E corsi d'acciaio, chiusi da sirene, nettare del cielo, gocciola di pene. Fratello nel razzismo e nella discriminazione, cerchi un lavoro di otto ore. Abu Dhabi, Abu Dhabi, Abu Dhabi, straniero nella mia nazione arrivato qui. Abu Dhabi, Abu Dhabi, Abu Dhabi, straniero nella mia nazione arrivato qui. Scambiato per un terrorista islamico, panico da gas allucinogeno, animo da indigeno, dannato senza ossigeno, filo spinato, spirito, lo zaino ti brilla nella metro, ti blindano in questura con i travestiti, impronte digitali, tatuaggi sovversivi, foto più domande, archivi, ma non spopperi, catalogato come numeri in una cella per accertamenti, una giornata intera, discriminazione vera di un'Italia che calpesta gli emigrati alla frontiera, merda seria. Corri con le gambe della mente, prendi un treno in corsa. Da qui a pochi cieli è paradiso, preghi in ginocchio dentro la moschea nell'odissea del tuo delirio. E polsi d'acciaio, chiusi da sirene, nettare del cielo, gocciola di pene. Fratello nel razzismo e nella discriminazione, cerchi un lavoro di otto ore.